24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui signori, eccoci qui, buongiorno a tutti, sono 6 e 11 minuti e 27 secondi, 24 mattino che prende il testimone da una serie di colleghi che tra poco saluto. Io dico solo questo, mi sono svegliato in piena notte, sono andato davanti alla TV, c'era Jordan, il ragazzo americano dello Utah che sta ospitando in questi giorni, lui vota la Clinton, ha votato la Clinton, ma l'ho guardato e mi ha detto oh my gosh. E lì ho capito che stava succedendo qualcosa di strano, qualcosa di imprevisto e imprevedibile, cioè Donald Trump che probabilmente come ci hanno raccontato Alessio Maurizi, Marta Cagnola tutta notte, potrebbe fare il colpaccio. Alessio, Marta, eccoci qua. Potrebbe, 238 a 209, magic number 270, tutto ancora possibile. Esatto. Potrebbero anche pareggiare, pensa che divertimento. È vero, vero, questo Jordan me l'ha detto, guarda, era lì con la mappa interattiva, dice guarda, se vince qua, potremmo andare a 269 pari. No, se va bene. Sì, che comunque per la Clinton non è una gran vittoria neanche arrivare a 269 a 269, però esatto. Vabbè, è insomma, l'ultima dai, speranza. Diciamo che noi ti invidiamo perché sarai tu a dare il risultato. Noi ci siamo fatti 6 ore di fila, ma non siamo riusciti a dare il risultato. Mi consolo dopo aver appreso quasi tutto su certe contee della Florida e del Michigan, che adesso infatti, conosco abbastanza bene. Tutti in Michigan. No, ma soprattutto andremo in vacanza la prossima estate in quella contea della Florida. Voglio vederli uno per uno. Sì. Gli elettori. Va bene, no, il Michigan è lo stato chiave. Tutti gli occhi sono puntati sul Michigan perché se Donald Trump dovesse vincere lì, allora la partita è davvero chiusa. Ma voi avete raccontato tutta questa notte, insieme c'è anche il nostro Sebastiano Barisoni, eccolo qua Sebastiano, ciao, buongiorno. Buongiorno a te Alessandro e di nuovo grazie a nome di tutta la radio, chiaramente a Marta Cagnoli e Alessio Maurizi. Sì, nottata pesante, vorrei ricostruirla con l'uomo che è più in lutto anche del comitato Clinton a New York, ossia il corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti, Mario Platero, che non ha voluto accettare nemmeno la sconfitta della Florida alle ore 3:15. Io non ho capito cosa ha votato, sull'Ohio era praticamente con una voce flebile, ma a questo punto deve accettare che Trump ha ottime possibilità di vincere. Vorrei adesso, per essere seri, 4 minuti, poi ti lascio volentieri la linea perché non ne possiamo onestamente più, ripercorrere con Mario cosa è successo. Prima di tutto però un aggiornamento, perché in questo momento l'andamento della borsa di Tokyo, che è quella che chiaramente sta prendendo a sé tutte le reazioni dei mercati, è obiettivamente preoccupante, e meglio essere seri in questo caso. Abbiamo visto Tokyo perdere prima il 2%, poi il 3%, siamo a un crollo del 5,5% che si avvicina al 6%. Speriamo che sia chiaramente una cosa poi recuperabile, ma la dice lunga sulla sorpresa, e qui altro che Brexit, come si diceva con Mario Platero, la sorpresa dei mercati finanziari, i futures, quindi le speculazioni sull'apertura delle altre borse europee, vedono Londra perdere il 5, Francoforte perdere il 5. C'è un dato incredibile, Alessandro Milan, perché non solo abbiamo scoperto cos'è il Michigan, alcune contee della Florida, stiamo scoprendo anche che il peso è tornato, il peso messicano, ai livelli più bassi nei confronti del dollaro da circa 20 anni a questa parte, come scostamento, sta perdendo il 12% in questo momento. E l'oro, voi avete tutti comprato oro questa notte. Certo, noi abbiamo lingotti sotto il materasso. L'oro sta crescendo del 4%. Allora, Mario Platero, ripercorriamo, so che per te è un calvario, un Golgota, ma vorremmo ripercorrere dall'inizio questa notte per chi si fosse appena svegliato e quindi non avesse seguito, come abbiamo fatto noi, tutto lo sviluppo più caotico, più convulso, più incasinato, se si può dire, che io ricordo nelle elezioni americane. Mario, all'una di notte, ora italiana, iniziamo a capire che insomma la resistenza di Trump è molto più alta di quanto non si prevedesse, di quanto anche i sondaggi non indicassero. Mario? Sì, è stato un rafforzamento progressivo quello di Donald Trump, soprattutto negli stati della costa orientale, degli stati che dovevano essere con certezza vinti da Hillary Clinton. Così non è stato. Prendiamo la Virginia, per esempio. Hillary Clinton aveva scelto Tim Kaine come suo compagno di corsa proprio perché voleva essere sicura di avere la Virginia, e i sondaggi le davano la Virginia all'80%. Ecco, questo poi naturalmente non è successo. Ha vinto la Virginia, ma l'ha vinta dritta sul filo di lana. Sebastiano, se tu ricordi, a un certo punto ci siamo accorti di che cosa? Ci siamo accorti che la forza sottostante di Trump era molto molto più impressionante di quello che si potesse immaginare. Ci sono stati degli effetti traino, e c'è un effetto traino, ti dirò, che potrebbe anche avvenire a cavallo del Michigan. Certo. Abbiamo Michigan e Wisconsin che in questo momento adesso arriveremo al Michigan, però per dare ordine di questa nottata e lasciare ad Alessandro Milan, come dicevano giustamente Alessio, Maurizio e Marta Cagnola, dopo 6 ore di diretta la notizia la darà lui con nostra grande invidia, ma insomma arriviamo, Mario, alle 3 di notte. No, ma voi state qua, ti ringrazio. Vi sfido. Arriviamo alle 3 di notte in cui lì c'è il giro di boss, così possiamo dire con un linguaggio velistico, iniziano a esserci delle proiezioni, non delle proiezioni, ma lo scrutinio dei seggi sulla Florida vede un vantaggio che via via aumenta 0,7, 0,8, 1%, 1,5% su Trump e poi anche l'Ohio, Mario. Sì, l'Ohio, la Carolina del Nord, poi la Florida, la Carolina del Nord, doveva tenere, perché negli ultimissimi sondaggi di questa mattina sia la Florida che la Carolina del Nord potevano essere a vantaggio di Hillary, e c'è stato un momento in cui Hillary era addirittura in vantaggio in Florida, quando abbiamo cominciato ad avere soltanto i risultati delle grandi aree metropolitane. Se Hillary avesse vinto la Florida avrebbe vinto subito le elezioni, ma così non è stato, e devo dire che da lì in avanti è stata una disfatta per Hillary, che non si è conclusa ancora, ma che certamente dà la misura di quanto questa rivoluzione in corso in America sia profonda, sia forte, sia drammatica, una spaccatura. E lì c'è un momento, lo dico ad Alessandro Milan che dormiva allegramente, in cui tutti capiamo, caro Alessandro, che le cose non vanno esattamente come ci si aspettava. Mario, Hillary Clinton twitta un messaggio molto chiaro: whatever it happens, no? E poi Barack Obama dice: comunque il sole sorgerà, che vuol dire è un'ovvietà tale come che la notte arriverà. Cioè i democratici iniziano verso le 3:30, 4 di mattina a prendere paura, e i mercati ne prendono le conseguenze. Sì, devo dire, i mercati hanno cominciato subito a fiutare che le cose non stavano andando per il verso giusto, che questi sondaggisti per l'ennesima volta avevano dato un'impostazione sbagliata alla realtà delle cose, non avevano capito fino in fondo la pancia del paese, e dunque abbiamo visto gli indici di borsa, quello per esempio relativo al Dow Jones, letteralmente crollare, cadere, prima il 2%, il 3%, poi il 4%, tu hai dato le indicazioni degli altri indici europei. Qui come per future, i mercati c'è una vera preoccupazione sul piano dei future, naturalmente, perché se Trump dovesse vincere la presidenza degli Stati Uniti, e ormai ci siamo, devo dire, davvero molto vicini, quindi è una reale probabilità, e cambia completamente l'impianto di certezza su cui i mercati, gli operatori, gli investitori, le aziende hanno impostato i loro programmi a lungo medio termine. Qual è? No, dimmi, Mario. Dicevo, il paradosso qual è? Che quegli stessi elettori della classe, della working class, dei lavoratori americani che hanno votato per Trump per protesta contro l'establishment, rischieranno di sentirsi quantomeno nel breve termine ancora peggio di quanto non siano adesso. Allora, volevo consegnare le ultime due chicche ad Alessandro Milan, perché poi vorrei che lavorasse, adesso non è che qui il lavoro nel trumpismo lo fanno altri. Alle ore 4:30, 5, un'ora prima, visto l'ora italiana, 3:30-4, iniziamo, Mario, addirittura a guardare con attenzione ad alcune contee sconosciute della Florida, come ricordavano prima Alessio, Maurizio e Marta Cagnola, per dire la disperazione un po' dei democratici, nella speranza che, come si chiamava quella contea per cui tutta la notte ci siamo impegnati a capire se sarebbero arrivati 300.000 voti? Brider County, sì, che Dade County e Brider County, sì, che sono vicine, non lontane, che torneranno nell'oblio, Alessandro Milan, tu Sebastiano dovresti conoscere come bene, no? È tra da sempre che bazzico in quelle counties. Detto questo, arriviamo poi alle 4:30-5 di mattina, in cui c'è un altro elemento a mio avviso impressionante, e cioè Alessandro Milan può non saperlo, ma la California vota la legalizzazione della marijuana, che il trumpismo inizia a prendere piede. Al di là delle battute, a questo punto tutto, e lasciamo veramente la palla ad Alessandro Milan col tuo ultimo commento, Mario, tutto si concentra sul Michigan. Anche qui, per chi si fosse appena svegliato, Mario Pratero circa un'ora fa ricordava come mai nella storia che lui ha seguito le elezioni americane, Mario, vi fosse stato un tale caos nelle proiezioni sugli stati. Gli stati che abbiamo sempre visto essere importanti, notoriamente, erano Ohio, Florida, ma insomma lì si andava. Sì, e in questo caso Ohio e Florida, che ha vinto Trump, non gli bastavano per vincere le elezioni degli Stati Uniti, e aveva capito Trump fin dall'inizio che il Michigan poteva essere uno stato chiave. Devo dire, è stato molto, molto bravo dal punto di vista strategico, perché è andato ben due volte in Michigan negli ultimi giorni delle campagne elettorali, addirittura tre volte, e credo che quelle visite siano le visite che hanno fatto poi la differenza, perché continua a dare nello stato chiave per il settore manifatturiero quella promessa di un futuro, di un protezionismo che, come sappiamo dalle teorie economiche, poi porta più danno che sollievo. Oh, e lascio Alessandro Milan con il peso, diciamo, delle dichiarazioni di Mario Platero, che nel commentare quello che stava succedendo, per essere molto seri, ha detto, insomma, qui c'è un messaggio molto chiaro: la politica che non cerca il compromesso per il risultato, spero di citarti correttamente, è una politica perdente. Cioè gli Stati Uniti sono stufi di una politica che vede nemico su nemico e non arriva mai a un risultato. Ti lascio con questa riflessione, che vorrei consegnare a Mario Platero. Ancora una volta è troppo facile giocare con la Brexit, comunque vada a finire, siamo tutti d'accordo che il risultato è stato sorprendente. Ancora una volta i sondaggisti non sono riusciti a cogliere la pancia, in questo caso del Midwest, prima del Kent, del Warwickshire, del nord dell'Inghilterra. Mario. Sì, non ci sono riusciti, hanno fatto del loro meglio. Io sono certo che hanno dei modelli matematici e statistici che tengono conto di invidiabili, insomma, di standard deviation e di ponderazioni di ogni genere. Però qui c'è qualche cosa di molto più profondo che non trova un dato da mettere in un'equazione. Cioè c'è una pancia del paese che si è scollata, c'è una spaccatura profondissima, e questa spaccatura andrà risanata, perché insomma la credibilità degli Stati Uniti è in gioco, la credibilità degli Stati Uniti come leader, e questo indipendentemente dal risultato finale, nel senso che Trump ha fatto davvero molto meglio di quel che ci si aspettava, e dunque da una parte abbiamo la Russia che avanza, che attacca, abbiamo l'antagonista cinese che cerca di guadagnare terreno, e abbiamo un'America che appare sempre più sperduta. Insomma, rientra questo risultato in quel contesto di crisi delle democrazie industriali di cui ormai parliamo da troppo tempo. Ho paura, caro Sebastiano. Allora, io ringrazio Mario Platero, resterà in collegamento con voi. Chiaramente vorrei anche che fosse comprensibile il suo lutto estremo, Alessandro. Cioè, dobbiamo anche avere un po' di sensibilità nei confronti del Democratico Platero, che votava per la prima volta, ci tengo a comunicarlo, con la doppia cittadinanza, e insomma è il migliore amuleto per Donald Trump. Sì, anche se bisogna dire che in questo momento la Fox, che fa le proiezioni già portandosi avanti, dice che per Trump sono di fatto 254 delegati, gliene mancherebbero dunque 16 per arrivare alla quota vittoria di 270. Indovinate un po' quanti delegati assegna il Michigan, proprio quei 16 che mancherebbero. Però il Michigan, che è dato per ovviamente da controllare con molta attenzione, e per Trump in questo momento danno il 47,2% lo spoglio alla Clinton e il 47,7% a Trump. Cioè non è poi neanche così detto che Trump riesca a giudicarsi questo Michigan, che certo gli darebbe la vittoria, però è ovvio che è a un passo. La notizia c'è tutta, però dovrebbe essere un clamoroso ribaltone da parte di Hillary Clinton, che dovrebbe vincere tutti gli stati rimanenti per aggiudicarsi i 270 delegati. Che dobbiamo fare? Niente, noi qua vi ringraziamo Mario Platero. Ovviamente dopo, quando ci sarà la proclamazione ufficiale, quando avremo la certezza al 100%, Mario sarà qui con noi in diretta, se non è notte inoltrata, ma tanto sono quelle notti che insomma si passano così. Anche Sebastiano Barisoni qui sveglio alle 6:25, signori, è una notizia. Non si era mai visto, diciamolo. Che cabe, non mai visto dall'82, credo, dall'82. Dai mondiali. Dall'82, esatto, dai famosi mondiali dell'82. 82, certo. Quelli del 2006. Solo grazie all'effetto inerziale della notte. È chiaro. Allora, grazie Sebastiano Barisoni. Grazie ovviamente a voi, complimenti a tutti. Grazie noi a voi. Come Radio 24 continuiamo passo passo a seguire la campagna, la campagna elettorale, la notte elettorale, con la proclamazione del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Sarà Donald Trump? Sarà Hillary Clinton? Lo scopriremo nel corso della mattinata. Adesso ci raggiungerà in studio anche Valentina Furlanetto, che ci darà tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. E poi gli ospiti, cominceremo anche con qualche ospite. Per esempio, tra 5 minuti dopo la pubblicità avremo con noi il politologo Edward Luttwak per cercare di capire che sta succedendo negli Stati Uniti. State con noi perché non vi lasciamo neanche mezzo secondo. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... mattino. Allora, buongiorno per tutti coloro che si sono svegliati, tutti coloro che sono all'ascolto in questa notte elettorale americana. Ricapitoliamo, in questo momento Donald Trump è vicino a essere proclamato 45esimo presidente americano. Donald Trump, perché secondo la CNN ormai 238 delegati vanno assegnati a Trump contro i 209 di Hillary Clinton. Secondo la Fox siamo già a 254 da assegnare a Donald Trump rispetto ai 215 della Clinton. Insomma, a Donald Trump mancherebbero 16 delegati e guarda caso il Michigan, dove Donald Trump è in testa di un punto percentuale in questo momento nello spoglio dei voti, assegna proprio 16 delegati. Noi racconteremo tutto in diretta, ovviamente è tutto in divenire, ma i pronostici ormai danno come strafavorito Donald Trump. Con noi c'è Valentina Furlanetto che ci accompagnerà. Valentina. Sì, buongiorno Alessandro. In effetti tu davi questi dati, devo dire che la CNN non tiene ancora conto, adesso l'ha conteggiato, dello stato del Nevada, che è andato poco fa a Hillary Clinton con 6 grandi elettori. Clinton arriva a 215 contro 238. Però questo è uno stato, diciamo, pronosticato. Esatto, l'ago della bilancia dovrebbe essere il Michigan, come dicevi. Lo staff di Trump intanto inizia già un po' a festeggiare. Grande notte per l'America è il commento. D'altra parte Trump è in testa anche per il voto popolare, con 1 milione di voti in più rispetto a Clinton. Allora, noi cominciamo a fare due chiacchiere con gli ospiti. Voglio salutare il politologo Edward Luttwak. Buongiorno Luttwak, buongiorno. Buona nottata quasi per lei. Che nottata è? Beh, intanto... Non qui. È solamente mezzanotte. Va bene. Senta Luttwak, intanto che dobbiamo pensare? Che la Casa Bianca è ormai quasi di Trump oppure no? No, non è... La Clinton può ancora vincere, ma quello che è chiaro è che se Trump non avrebbe avuto le sue eccentricità e andava semplicemente col suo programma, avrebbe ormai tutti sarebbero a dormire perché avrebbe vinto la grande. E il significato di questa cosa teorica è una cosa pratica, cioè che i repubblicani vincono il congresso, la Camera dei Deputati, sì. Vincono il Senato, il che vuol dire che non ci sarà una continuazione delle politiche attuali, ma ci sarà un bel cambiamento. Questo infatti è importante. Vogliamo ricordare. Hillary, c'è il fatto che la prima cosa che faranno sarà di aprire tutta una nuova investigazione sui rapporti fra la Fondazione Clinton e il Dipartimento di Stato sotto Hillary. Ah, dice sì, questo. Sì, perché intanto Luttwak, vogliamo. L'FBI non ha neanche cominciato a investigare. Chiaro. Ricordiamo intanto una cosa, Luttwak, che come ha detto lei si vota anche per la Camera dei Rappresentanti e lì la maggioranza è repubblicana, si vota anche per un terzo del Senato e anche lì il Senato diventa di fatto repubblicano, quindi volendo pensarla così è più naturale che anche il presidente sia repubblicano per una sorta di cooperazione politica. O girando la domanda, Hillary Clinton avrebbe problemi alla Casa Bianca con un Senato e una Camera dei Rappresentanti repubblicana? Beh, certe cose non avrebbe grandi problemi, come certi aspetti di politica estera che sono consensuali negli Stati Uniti, cioè la gente è d'accordo. Ma per esempio con la Camera non potrà fare molto, perché la Camera subito aprirà un'investigazione contro di lei con la speranza di rimuoverle tramite l'impeachment, è fallito contro il marito Bill, ed è fallito perché le sue colpe erano colpe venali. Quello che lui aveva fatto quasi tutti nel congresso hanno cercato di fare o hanno fatto, ma con Hillary lei non ha non è il tipo di bandito simpatico del marito, è una persona che molti trovano detestabile, e quindi è molto grave, perché se vince Clinton sarà paralizzata. Paralizzata, dice l'America. Sì, da queste investigazioni che partiranno il giorno stesso. Perché è così importante ora il Michigan? Cosa può succedere dal Michigan? Beh, il Michigan è decisivo a questo punto. Mm. Quando si saprà qualcosa? Lui può... cos'è? Aspetta un istante. Sì, vabbè, siamo in diretta. Il bello della diretta. Lui può vincere. All'inizio della serata si pensava che lui sarebbe rimasto schiacciato, e invece può vincere. Il mero fatto che può vincere è già una misura... misura un fatto, cioè il valore delle idee proposte da Trump. Sì, lui è contro la globalizzazione, sì. È contro queste megastrutture, è contro tutte le idee che si propagano a Davos e così via, sì. Questa correttezza politica sul commercio internazionale, queste cose così. E quindi, anche se i membri del Congresso non sono legati minimamente a Trump, anche se Trump se ne va a spasso dopo questo e non si occupa di politica, credo che è impossibile di andare avanti con queste misure tipo globalizzazione. Trattato pacifico. Questo è il messaggio che pare arrivare. Allora facciamo così: noi intanto Edward Luttrak la ringraziamo, stiamo a vedere che cosa succede. Mi pare di capire, cara Valentina, che poco fa anche il New Hampshire, che dà 4 voti presidenziali. Esattamente. Anche il New Hampshire è passato a Trump. Tra l'altro un altro stato che vedo testa a testa invece sta per essere assegnato, la Pennsylvania. E anche la Pennsylvania ha un numero di grandi elettori molto alto, perché sono 20 grandi elettori, sì. Quindi staremo a vedere, sono al 48,5 a 48, e quindi è davvero un testa a testa. In ogni caso diciamo che Trump dovrebbe vincere anche in Wisconsin, in Iowa, in Georgia, ma lo New stato Hampshire chiave... 4 grandi elettori. Esatto, Alessandro. Lo stato chiave è proprio questo, il Michigan. Perché se le proiezioni sono queste, se vince il Michigan vince i 270 grandi Donald elettori. Trump diventa presidente americano. Io voglio salutare anche un collega che ci può dare un punto di vista molto interessante per quelle che sono le borse, perché per lungo tempo è stato corrispondente del Wall Street Journal qui in Italia. Si tratta di Aaron Mains, scrittore, giornalista americano. Buongiorno Aaron, ben trovato. Buongiorno a tutti. Starai seguendo ovviamente questa nottata, come dire, molto molto vibrante, perché insomma, tutti in genere dicono ogni 4 anni bisogna sapere che succede nell'Ohio. Per carità, è importante l'Ohio, questa volta dobbiamo sapere che succede nel Michigan, tutti appesi al Michigan. Aaron Mains, che può succedere in questo momento? I giochi sono fatti oppure no? Ma non sono fatti ai numeri, sono sconvolto dal risultato, non credo di essere l'unico. Non me l'aspettavo mai, non l'avrei mai detto. Non l'avessi mai detto, come tutti i sondaggisti. Infatti la CNN si poneva proprio questa domanda che generalmente ci facciamo in Italia ogni elezione, ma adesso anche in America. Ma che hanno combinato i sondaggisti? Infatti aspettavo un'altra domanda, aspettavo ma siete impazziti? No, per carità, no. Io non sono della teoria, però se vuoi faccio anche questa, siete impazziti. Ma io penso che sostanzialmente gli americani abbiano votato di protesta, è l'unico modo che ho per interpretare una scelta che a me manca ogni logica. Penso che sia un simile al Brexit in questo. C'è un grande protesta contro il sistema attuale. Il problema è che abbiamo saltato dalla padella. Ovviamente tutto lo diciamo, secondo Aaron Mains, dando per scontato che ci sia la vittoria di Donald Trump. Ricordiamo che è ancora in bilico, ma è un essere in bilico che propende più per i repubblicani. Tant'è vero che, come Valentina Fulanetto mi faceva sapere poco fa, il Nikkei, per esempio, quindi l'indice di Tokyo, perde già il 5,57%. Cioè le reazioni delle borse mondiali, Aaron, tu che conosci, appunto sei stato corrispondente del Wall Street Journal, perché i mercati reagiscono così a una possibile vittoria di Donald Trump? Trump rappresenta il fattore X un po' per tutti, non ha l'esperienza per coprire il ruolo e quindi tutti si chiedono ma mo cosa succede? E penso che i mercati rifletteranno assolutamente questo stato di incertezza. Credo che vedremo un calo all'inizio e poi dipenderà tutto da come agisce Trump e soprattutto con chi si circonda, perché fino ad ora non si è circondato necessariamente con gente particolarmente in gamba e quindi staremo a vedere tutti. Ci vuoi riassumere anche un po' qual è la filosofia di Trump, anche se non è una filosofia immagino che ami molto, appunto contro la globalizzazione, contro la Cina, che anche in straordinarie parodie durante la campagna elettorale è diventata un po' la sua ossessione in qualche modo, nel nominarla continuamente. L'essere contro, ci ha detto Edward Luttwak, anche quella finanza molto ben educata del politically correct di Davos e dei grandi salotti finanziari. Vedremo. Mi chiede delle cose che ovviamente ai quali vorrei rispondere, ma non sei scioccato. Mi trovo in un stato di shock, sinceramente. Sono, evidentemente devo portare avanti la mia richiesta di diventare italiano. Guarda, dici questa battuta, ma le agenzie americane hanno dato questa notizia poco fa, io non lo so, la riporto, ma credo che sia vera, che il sito che gestisce la questione dell'immigrazione nello stato del Canada è andato in tilt poco fa, perché evidentemente ci sono molte persone che stanno facendo domanda per capire dagli Stati Uniti se si può immigrare in Canada. Aaron, non è una battuta, ma l'ANSA dava questa notizia. Le autorità canadesi hanno fatto sapere che il sito che gestisce l'immigrazione è andato in tilt questa notte italiana. Non mi sorprende affatto. C'è un Aaron Mains colpito. Va bene, noi ti ringraziamo, vediamo un po', sarai tanto sveglio tutta la notte con da qui dall'Italia per capire che succede, capito Valentina? Anche Marta Cagnola diceva che il sito era andato in crash. Tra l'altro ti segnalo i futures sugli indici americani chiaramente in grande calo del 5%, il Nasdaq di più del 5%, il Standard & Poor's e poi Trump si è già recato verso l'hotel dove dovrebbe festeggiare, quindi dà un po' per scontata la vittoria. Si vota anche, Alessandro, come sapete, in alcuni stati per la pena di morte. Nebraska è tornata la pena di morte e poi l'avevamo detto anche durante la notte, per l'uso della marijuana ricreativo, e in alcuni stati è passato come in California. Intanto Nancy Pelosi è stata rieletta alla Camera, perché sappiamo alcune vengono avvicendate anche la Camera e il Senato. Allora, sì, un terzo del Senato e la Camera vengono rinnovati. Noi dobbiamo andare a dare le informazioni sul traffico, poi facciamo un riepilogo. Stiamo ovviamente raccontando tutta la notte delle elezioni americane, raccontiamo anche, come dice la CNN poco fa, che le prime persone stanno abbandonando il raduno a New York di Hillary Clinton, dove parlerà, comunque andrà la vicenda e come finiranno le elezioni. Le persone, secondo la CNN, alcune stanno abbandonando in lacrime, segno che evidentemente danno ormai per spacciata la candidata democratica, la loro candidata, e danno ormai per quasi vincitore Donald Trump. Ma la parola fine non è ancora scritta, ricordiamolo. Noi lo racconteremo a Radio 24, minuto per minuto. Tra poco avremo anche, credo, delle persone, degli ascoltatori che ci seguono fissi dagli Stati Uniti, ci racconteranno il loro voto. E allora state con noi, traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Mattino. Allora, quello che sta succedendo negli Stati Uniti, notizia di un secondo fa, tra l'altro, perché si vota anche per il referendum, e anche il Massachusetts ha detto sì all'uso ricreativo della marijuana. Ci sono dei referendum popolari, in alcuni stati si vota anche su questo. Siamo con Valentina Furlanetto. Allora, intanto, al di là delle questioni presidenziali, c'è anche questo dato di fatto. Anche in Massachusetts sì all'uso ricreativo della marijuana, come in California, hanno già votato e i risultati sono arrivati questa notte. C'è da dire che Donald Trump, che è a New York insieme a Hillary Clinton, anche lei a New York, solo che Donald Trump si è trasferito a Lilton e ha definito, secondo le prime indiscrezioni, quello che sta per avvenire, il suo Victory Party. Quindi il party della vittoria. Indiscrezioni, mentre dove c'è Hillary Clinton e dovrebbe parlare, le persone stanno abbandonando la sala in lacrime. Ora, Valentina, questi sono segnali che fanno capire che l'ago della bilancia propende sempre più verso Donald Trump. Sì, anche i voti d'altra parte dovrebbe, calcolano che dovrebbe vincere a questo punto il Michigan, Hillary Clinton, New Hampshire e la Pennsylvania per raggiungere Trump. Tra Hillary Clinton e la presidenza degli Stati Uniti ci sono appena 40.000 voti, ma paradossalmente è un abisso, perché sappiamo contano i grandi elettori. Sì, conta vincere anche di un solo voto ogni singolo stato. Allora, noi abbiamo come sempre un grande tesoro da recuperare, i nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, e sono tanti e noi li abbiamo tenuti in debito conto. Tra questi ci sono anche molti che stanno in America, come Luca Alberti, che si trova a New York in questo momento. Luca, buongiorno, anzi buonasera per te, sera tarda, dove ti trovi? Buonanotte, ciao Alessandro. Sono a Times Square in questo momento. Ah, beh, nel cuore quindi, di New York. Raccontaci un po', sei il nostro inviato, sei promosso inviato di Radio 24 in maniera ufficiale. Grazie. No, tra l'altro ho perso le ultime 4 ore perché ho volato da Chicago a New York questa sera, quindi sono partito con Hillary in vantaggio e sono arrivato con la situazione opposta. Quindi, conosci il Michigan? Conosci il Michigan? Sono arrivato schiacciato. Sono veramente difficili. Com'è il clima? Com'è il clima lì, Luca, a Times Square? A Times Square, dicevo prima di collegarmi, avevo paura a collegarmi da qui perché temevo il caos. Invece è una piazza affollata come sempre. Adesso vi ho mandato anche qualche fotografia, ma silenziosa. Silenzio. C'è un clima silenzioso, come, non so se sentite rumori di sottofondo, ma nulla, è una Times Square molto più silenziosa del solito, nonostante sia affollatissima. Quindi potete vedere le fotografie, immagino che ci siano anche, c'è pieno di televisioni qui intorno, quindi certo. C'è il palco della ABC News. Ricordiamo New York è feudo anche di Hillary Clinton, quindi esatto, però anche di Donald Trump, è la sua città. Allora, Luca, intanto ti ringraziamo, magari ti richiamiamo, tanto se sei lì farai notte. Aaron Mainz, vedi, c'è lo sbigottimento, però sai, questi sono, immagino se andassimo in Texas, se andassimo nello Utah, se andassimo in Oklahoma, probabilmente troveremmo un altro clima, o no, Aaron? Assolutamente, credo di grande festa, evidentemente. Esatto. Temo che gli americani non sappiano per ciò che hanno votato. Ma questo penso perché che... lo dici, su che fronte? Perché un ascoltatore ci dice il mondo sarà in pericolo, ci scrive questo messaggio, con Donald Trump. Beh, ricordiamo che forse in politica estera, per esempio, Hillary Clinton è considerata una politica a rischio di aggressività nei confronti di Putin, nei confronti della questione ucraina, nei confronti della questione medio orientale, forse più di Donald Trump, che forse non maneggia bene la questione, ecco, più che altro. O no? Ma sì, io penso che, ma non credevo che Clinton fosse un pericolo, penso che lei fosse più che altro un professionista, cosa che non si può, ahimè, dire di Trump. Quindi adesso sta tutto a vedere il modo in cui lui prende in mano le redini della nazione. Bisogna dire che in fondo un presidente, noi diciamo sempre un presidente abbia controllo e potere, ma neanche tanto, perché c'è un equilibrio e il famoso bilanciamento dei poteri, sì. E spero in questo senso che lui sia guidato bene da chi di dovere. Cioè, io anch'io credo che le teorie di Trump o le parole dette in campagna elettorale poi non si traducano per forza in fatti concreti. Ci sono poi, c'è lo staff, c'è l'entourage, ci sono tutta una serie di persone, infatti, che stanno attorno. Ma c'è anche da dire che con Trump non smette mai di sorprendere. Non si sa bene come reagirà, e penso che tutto quanto adesso ci sarà un po' una grande pausa in cui cerchiamo di capire in che modo prenderà potere Trump. Chiaro. Se dovesse vincere, ovviamente ancora c'è la speranza sempre più fievole. Aaron, ti lasciamo andare, credo, non dormire perché sei sotto shock. Intanto ti ringraziamo, Aaron Mains. Grazie per essere stato con noi. Cara Valentina, noi abbiamo un minuto prima del giornale radio, ma poi continuiamo. Vogliamo andare a Seattle, lo stato di Washington, quindi siamo all'estremo nord-ovest, dove ha vinto la Clinton, hanno vinto i democratici, e la nostra Barbara Cozzarini, che ci segue da lì e ci ascolta. Ciao, buongiorno, Barbara. Buongiorno Lino, come va? Bene, hai votato? Tu voti oppure lì? Sì, no, io voto, sono cittadina, è la seconda volta che voto qui negli Stati Uniti. Ah, fantastico. Hai votato? Ho votato per posta, è stata un'esperienza completamente diversa perché mi sono trasferita a Seattle ad agosto. E ho vissuto 13 anni nel sud-est, quindi ho vissuto in due pianeti diversi. Certo, dal sud-est al nord-ovest. Completamente diversi, per cui l'esperienza della votazione è stata comunque molto diversa rispetto al 2012, dove ho fatto la fila per 2 ore. Qui si mandano la scheda a casa, per posta, voti 3 settimane prima del giorno delle elezioni. Voti o per posta oppure vai al drive-thru e voti così. Quindi, hai fatto così. Si può dire che hai votato? Beh, il voto è segreto anche negli Stati Uniti, però chi se ne frega, non ti ascolta nessuno. No, non ho nessun problema a dire che ho votato per Hillary Clinton. Hai votato per Hillary Clinton. E quindi come ti trovi in questo momento? Parte di me è ovviamente scioccata, come la maggior parte delle persone, però non sono sorpresa. Mm-hmm. Perché ho vissuto 13 anni, appunto, 6 anni in South Carolina, 7 anni ad Atlanta, e quindi ho visto l'America che vota per Trump, l'ho vista ogni giorno per 13 anni e quindi sì, sono scioccata, non me l'aspettavo, non mi aspettavo che fosse la maggior parte dell'America che vota così. Però questo così, per me è lo shock, però così, l'ho vissuta così pare, diciamolo sempre in forma dubitativa. Sì, Barbara, sì, beh, certo. Ti ringraziamo, ci dobbiamo fermare perché c'è il giornale radio, cara Valentina Furlanetto. Fermiamoci proprio qui che abbiamo già sforato i 20 secondi, ma riprendiamo dopo le 7, ma il filo conduttore sull'America continua, state con il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta '24 mattino. Sono le 7:21 minuti, io voglio ricordare che siamo in completa e continua diretta per capire quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove, per chi si è svegliato in questo momento, vogliamo riepilogarlo. Faremo tra poco anche con Valentina Furlanetto, che è qui. Ciao Valentina, ovviamente. Dove Donald Trump è in vantaggio ed è, pare, a un passo dalla Casa Bianca. Secondo la CNN, in questo momento vengono attribuiti a Donald Trump 244 delegati e alla Clinton 215. Fox News è un po' più avanti, secondo le proiezioni arriva a 254 già assegnati a Donald Trump, gliene mancano 16, guarda caso, cara Valentina. Fox News però, Alessandro, non sappiamo che è sempre autorevole ma sicuramente pro Trump. Vabbè, ma tanti voti sono voti. Gliene mancano 16, guarda caso, il Michigan, dove è diventato uno stato importantissimo, a questo punto decisivo, assegna proprio quei 16 che potrebbero mancare a Donald Trump. Sì, Donald Trump è in testa per 58 elettori negli stati ancora in bilico e la Clinton per 14. In Pennsylvania Trump è in testa per 48,7 contro 47,8, in Michigan per 48,3 contro 46,5. Michigan, lo dicevamo, è uno stato chiave, 16 grandi elettori, e a questo punto, se si assegnasse il Michigan a Trump, avrebbe matematicamente vinto. Tra l'altro i repubblicani mantengono anche il Senato, e a questo punto davvero si aprirebbe lo scenario di un'America in mano al Partito Repubblicano, oltre che a Trump. E il Nikkei è in calo del 5,36%, l'indice di Tokyo. Sono negativi ancora i futures americani con cali del 5%. Sono stati chiusi, tra l'altro, definitivamente in America i seggi con la chiusura delle urne in Alaska, quindi tra poco penso che potremo avere i risultati anche del Michigan. Allora, tra l'altro, vi ricordo adesso non ci sarà oggi questo, in questo spazio consueto, la rassegna stampa, perché, anche perché tra l'altro gran parte dei giornali che raccontano anche di altre notizie, una su tutti la morte di Umberto Veronesi ovviamente, però i giornali, come potete prevedere, non raccontano nulla, non possono, essendo stati stampa a mezzanotte, delle elezioni americane, quindi meglio seguire passo passo. Ma ieri avevamo uno, il solito juventino arrogante, l'arroganza dei vincitori, l'arroganza di coloro che fanno le previsioni. Chi avevamo ieri? Vince Trump. Eccolo qua, Marione Adinolfi, ciao! Ciao, buongiorno! Ma sentilo qua, come un usignolo, vince Trump. Tanto non ha ancora vinto Donald Trump, basta leggere i dati delle borse per capire che ha già vinto, tu dalle borse. Boh, oddio, c'è anche un'altra immagine plastica, la convention dove è attesa Hillary Clinton, si è svuotata la sala con gente che esce in lacrime, mentre all'Hilton Center dove è atteso Donald Trump pare che abbiano già denominato il Victory Party quello che sta accadendo e tutti sono in attesa. Vabbè, non, allora, vince, esatto, non vince solo con il Michigan, sta avanti, mi pare, sta a ridosso di quota 300, quindi. Sì, beh, adesso quota 300 non so, vediamo proiezioni. Nelle proiezioni, una cinquantina di grandi elettori sui 244 già segnati da CNN, che è l'indicazione più bassa. Però era interessante vedere che anche stanotte c'erano gli intelloi italiani che mi spiegavano che non era vero che stava vincendo Trump. Rondolino che è venuto durante Rondolino, vabbè, adesso ma che fai? Ti togli Sassolini. Rondolino è un cittadino americano, io ogni tanto vado da me. Esatto. Rondolino a casa, sì, a giocare soldi a Las Vegas, diciamolo chiaramente, a giocare a poker a Las Vegas vai. E quindi lui a casa in Nevada, proprio a qualche centinaio di chilometri da Las Vegas. E conoscendo l'America profonda, chi la conosce un po' sapeva che un'aria strana stava tirando. Solo che la Clinton ha perso la Florida, ha perso in Florida, perde forse il Michigan. Con gli ispanici frode la Florida, questa è una cosa molto interessante. Cioè, ha massacrato gli ispanici Trump e gli ispanici hanno votato per lui, insomma. Molte donne, molto voto femminile. Ma, forse, ripeto, perde in Pennsylvania. L'America profonda aveva una rabbia dentro enorme. Ricordiamoci che l'America ha 43 milioni di poveri, cioè la classe media si è drammaticamente impoverita e questa cosa non poteva che esplodere come una bomba. Diciamolo chiaramente, si è detto in campagna elettorale, Mario, che Hillary Clinton è donna, e questa è forse la grande novità, cioè la primo presidente donna, però voglio dire, non era forse una delle candidate democratiche, forse la meno amata o il meno amato dei candidati democratici, donna di potere da Hillary sempre. Hillary Clinton era establishment, la questione femminile non c'entra proprio niente. Hillary è la fotografia dell'establishment per gli Stati Uniti, una donna che ha dedicato 50 anni della sua vita integralmente sopportando di tutto solo al potere, e gli americani avevano una dannata voglia di dare un calcio all'establishment. L'intuizione l'aveva avuta anche Michael Moore, raccontando, da elettore americano e sostenitore democratico, quello che viveva nell'America profonda, e spiegava: guardate il vince Trump. La sua lettura dei fatti molto spesso è molto intelligente, e leggendo le cose scritte da Michael Moore si capiva, perché Michael Moore, tra l'altro, ripeto, è un grande sostenitore dei democratici, che stava succedendo qualcosa di profondo. La rabbia americana è drammatica perché la classe media si è drammaticamente impoverita, e non è come in Italia dove ci sono le reti di protezione. Lì impoverirsi vuol dire perdere la casa, il lavoro, arrivare sull'asso, avere 46 milioni. Sì, non c'è il welfare che abbiamo qui, noi. Questi reagiscono, non è come da noi, insomma, reagiscono in maniera violentissima, e Trump è stata una grandissima occasione di riscatto per loro, insomma, per vedere affondare quelli di Wall Street, come dicono lì. No, ma è chiaro, e adesso tu vediamo, tu Mario ne parli come se avesse già vinto, e il dato di fatto ormai è quasi questo, manca ovviamente però l'ufficialità, la attendiamo. Intanto Marione ti lasciamo crogiolare nella tua arroganza juventina. Seguite la politica. Caproni, non me lo dici, Caproni? Esatto. No, guarda, studia, che sta, ti dico una cosa. ho lanciato ieri una sfida a raccontare a tutti gli ascoltatori di mandarci in audio che ne pensano di te che li chiami caproni. E la prossima volta che ti ospito alle 6:30 mi sa che ci sarà pane per i tuoi denti. Preparati, un abbraccio, ciao. Grazie Mario Di Nolfi. Cara Valentina, tu anche che ti sei occupata della questione femminile, vedi Hillary Clinton è donna, seguivo i tuoi servizi anche i giorni scorsi, ma è una donna, ma parliamoci chiaro, è considerata da molti insopportabile, non è proprio l'emblema della donna nuova, la donna che poteva il fattore questo, D ha parte. Contato meno di quanto abbia contato il fattore establishment, lei insomma è stata vissuta come una donna di potere più che come appunto una portatrice dei valori, anche tante femministe non l'appoggiavano. Ti segnalo Alessandro che le agenzie stampa hanno appena battuto a proposito delle effetti che potrebbe avere sulla politica estera questa elezione possibile a questo punto e probabile di Trump. L'ufficio presidenziale sudcoreano ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere il potenziale impatto delle elezioni presidenziali. Seul in pratica guarda con sospetto l'approccio che dice non convenzionale, così lo definisce, verso la Corea del Nord. Vabbè, io posso dire no, se vogliamo molto bene ai sudcoreani, ma adesso io anche questo atteggiamento di pensare che, come con la Brexit, con l'arrivo di Donald Trump ci siano le cavallette che ci aspettano fuori anche qui dalla radio, fuori dalle vostre macchine, pronti a mangiarci perché arrivano le sette piaghe d'Egitto, non so se erano 7, 10, non me lo ricordo. Forse sono tutto un po' in realtà ci sono i balance, Obama, no? L'ha detto Obama. Obama ha detto, ha twittato questa notte, come ci ricordava prima Sebastiano Barisoni, comunque vada, domani sorgerà il sole. State tranquilli, non ci saranno guerre mondiali e Trump non sgancerà atomiche contro nessuno, anche perché credo non lo voglia. E secondo, non è che si sveglia al mattino il presidente americano e fa quello che gli passa per la testa, no? Ci sono i balance. Ma sì, ci sono i balance, quindi le altre tipi di poteri che equilibrano giustamente i poteri del presidente, quindi Camera e Senato. Intanto è stato assegnato il Maine, che non è una sorpresa, chiaramente, perché si sapeva che sarebbe andato ai democratici, 4 grandi elettori per il Maine, quindi per la Clinton. Mm-hmm. E attendiamo sempre i dati del Michigan. La CNN dice che in questo momento in Michigan Trump è al 48,3%, Hillary Clinton al 46,6%, quindi ballano un punto e mezzo percentuale, e se questi 16 grandi elettori dovessero andare a Donald Trump e se gli altri, che la Fox News dà già per quasi certi a Donald Trump, si arriverebbe a quella quota 270 per cui sarebbe fatta per il candidato repubblicano. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi altri ospiti, avremo Umberto Brindani, direttore di Oggi, Flavia Perina, verremo con lei, il fattore D, Flavia Perina, se è servito, evidentemente no, avremo anche il nostro ascoltatore, ve lo ricordate, il mitico Gaetano dal Texas, fa l'architetto in Texas, cara Valentina, ci spiegherà lì nel profondo West trampiano come è il clima, e state con noi. State ascoltando un programma offerto da... JP Morgan Asset Management. Ventiquattro mattino. Allora, tra l'altro alle 7:36 minuti, fatemi ringraziare, non l'ho fatto, Peter Bescapè in regia, che è sempre lì, il nostro alpino ovviamente, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, che ha preso il testimone anche da Claudio Schiattone, che è lì in regia e non ci abbandona perché vuole aspettare la proclamazione trionfalistica di Donald Trump. E insieme a Valentina Fornelletto invece siamo qui a condurre questa lunga diretta. Ricordiamo che dopo l'assegnazione del Maine poco fa, cara Valentina, dove la Clinton ha ottenuto 3 grandi elettori e 1 a Trump, evidentemente. Sì, perché è l'unico, sono 2 gli stati in cui non vale il principio winner takes all, cioè che vengono assegnati tutti i grandi elettori e non in maniera proporzionale al voto. Nel caso del Maine invece non funziona così, quindi sono 3 a Clinton e 1 a Trump. Siamo in attesa di altri stati, che sono la Pennsylvania, dove al momento è in testa Donald Trump per 48,7% contro 47,7%. Dicevamo il Michigan, dove è in testa Donald Trump decisivo, ed è in testa Donald Trump per 48,3% contro 46,6%. In attesa, sempre nella zona dei Grandi Laghi, il Wisconsin, 49 per Donald Trump, 45,8 per Clinton. Mm. È in testa invece Clinton in Minnesota, 47,5% contro 44,8, sono in questo caso 10 grandi elettori. E l'Alaska, che è l'ultima che ha chiuso le urne, sì, e l'ultima che ci darà i risultati, ma sono solo 3 grandi e elettori. E poi mancano anche Arizona e New Hampshire per, esatto, concludere. Diciamo che se Trump vincesse tutto questo sarebbe un trionfo, sarebbe sui 300 delegati. Sì, 302 delegati, esatto, che sarebbe molto superiore anche delle più favorevoli aspettative per Trump. In ogni caso, il tema è questo: Donald Trump sembra davvero lanciato verso la Casa Bianca. Io voglio salutare Umberto Brindani, direttore di Oggi. Ciao Umberto, ciao direttore. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Così come voglio salutare Flavia Perina. Buongiorno Flavia. Buongiorno, eccoci, a voi, buongiorno a voi. Si discuteva prima, Flavia, che l'effetto fattore D, cioè donna, con Hillary Clinton non ha evidentemente portato. Io sostengo che, voglio dire, avrebbe potuto scegliere 8.000 donne più rappresentative delle donne di Hillary Clinton, che è una gran donna, ma insomma soprattutto una persona di potere, no? Forse è stata più percepita così come la grande novità femminile, o no Flavia? Credo che abbia pesato in alcun modo, di fronte alla proporzione di questi risultati, non ha pesato in alcun modo secondo me il sesso della candidata, il fatto che fosse una donna. Qua sono altre le dinamiche che hanno agito in questo voto. Quando un Trump, se vincerà come tutto sembra probabile, prende non solo la Casa Bianca ma anche la maggioranza alla Camera e al Senato, che è una cosa che in America non succedeva dal 1928, quindi è una cosa veramente storica, e significa che hanno davvero agito da altri elementi che hanno pochissimo a che fare ci diceva prima Mario Dinolfi, per esempio, il grande impoverimento, cioè il grande numero di persone povere, quindi arrabbiate, quindi sì, questo sicuramente, guarda, chi ci aveva visto lungo è Michael Moore aveva raccontato agli americani 5 motivi per cui Trump vincerà, quando tutti quanti davano per vincente Hillary, e al primo posto tra questi 5 motivi aveva messo l'impoverimento della cintura agricola. Tra l'altro Flavio, scusa se ti interrompo, secondo la AP Trump ha vinto in Pennsylvania. E questo quindi è un altro, ha vinto, perché quindi i 20 voti della Pennsylvania gli danno la vittoria matematica. Adesso questo, cioè, vediamo se danno per scontati gli altri stati, dove secondo la Fox sarebbe già 254. E quindi andrebbe a 274. Arriva alla maggioranza, al numero di voti che gli serviva, quindi ha vinto anche matematicamente. Sì. Il punto, secondo me, vero è che in questa circostanza si è espressa una sorta di scontro di classe. Lo scontro di classe tra l'America impoverita dalla globalizzazione, dalla crisi, e i poteri economici finanziari che erano, e anche mediatici, che erano tutti quanti dalla parte della Clinton. Gli americani non solo hanno scelto Trump come presidente, ma prima lo avevano scelto come candidato. Sì. Tutti i candidati più moderati, diciamo, dei repubblicani, che interpretavano questo scontro di classe in modo più morbido, sono stati segati fin dall'inizio. Trump all'inizio sembrava il candidato buffone, quello che avrebbe fatto divertire i grandi network, ma non invece avrebbe... no, soprattutto quello che ha sbaragliato tutti i sondaggi, eccetera. Quindi, vorrei sentire anche da Umberto Brindani. Umberto, tu ovviamente sei oggi, ho sempre questo gioco di parole dal cui un giorno dovrò uscire, sei oggi ridicola con Oggi, aiutami tu, ma potendo rifare la copertina, insomma, cosa metteresti? Il faccione di Donald Trump? Guarda, o sei tra i pessimisti che dicono arrivano le cavallette nel caso vincesse Trump? Guarda, intanto in questo preciso istante sarebbe arrivato 274. Avrebbe vinto anche l'Alaska, secondo alcuni, esatto. Quindi altri 3. Diciamo che al momento la CNN ne dà certi 2,47, perché sì. gli altri però... Vabbè. Comunque, diciamo che se mi devo collocare, mi colloco tra i catastrofisti, nel senso che ho fatto anche due editoriali per mettere in guardia contro il fatto che sarebbe, se avesse vinto Trump, cosa che sta evidentemente succedendo, avremmo avuto al governo del pianeta quello che ho definito un uomo incivile, nel senso che insomma adesso tutti ci stiamo dimenticando le molestie sulle donne, il fatto che sia un bugiardo seriale peggiore ancora della sua avversaria, il fatto che insomma un uomo d'affari che è abituato a trattare le cose da uomo d'affari e non da politico. Quindi Io sono tra coloro che sono molto preoccupati per il fatto che, come diceva Flavia Perina, abbiamo per la prima volta un presidente che ha tutte e due le camere, sì, come si può dire, a sua disposizione, sempre ammesso che i repubblicani poi non si ribellino, ma non solo, aggiungo, c'è la Corte Suprema che era il contropotere, è certo. Come dire, che è il contropotere americano, alla quale mi sembra che manchi l'ago della bilancia, e lui nominerà un giudice favorevole, sì. questa è una bruttissima notizia per tutti coloro che sono preoccupati per esempio dei diritti civili. Allora, qui dobbiamo ovviamente tener conto, cara Valentina, di secondo la API, avendo vinto la Pennsylvania, che non è ancora ufficiale, secondo la società, siamo al 97% dello scrutinio. Avendo vinto la Pennsylvania e considerando i pronostici che davano già, secondo proiezioni, 254 delegati a Donald Trump, qui saremo quindi a 274, avrebbe vinto. Ovviamente usiamo il condizionale, perché finché gli stati non sono ufficialmente chiusi, però insomma stiamo parlando di un qualcosa che dovrebbe davvero accadere. Vedi, anche in Wisconsin è in vantaggio 49-45-8. Sì, quindi siamo veramente a meno 5 stati con questa Pennsylvania che viene data al 97% dello scrutinio, in testa Donald Trump, che vincerebbe a questo punto 20 grandi delegati e arriverebbe a 264, sì, quindi è un passo proprio, esatto, della vittoria. Allora, noi abbiamo anche questo spazio, come al solito, con il nostro Mauro Meazza, che saluto del Sole 24 Ore. Maurino, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Alessandro. Ovviamente qua la rassegna stampa è saltata tutta, perché noi dobbiamo parlare, i giornali sono un po' vecchiotti, almeno per l'aspetto americano. I mercati invece sono giovanissimi. I mercati sono giovanissimi e anche un pochino preoccupati, per usare un eufemismo. Già lo dicevate, c'è stata questa brutta chiusura del Nikkei sotto di più di 5 punti, però insomma anche Hong Kong meno 3,5, i mercati in realtà scommettevano sulla candidata e non sul candidato, e quindi adesso tutti temono l'incertezza che ne deriva. Ecco, come perché sai, ricordiamo proprio, Mauro, ieri, come raccontava Vito Lopes, i mercati avevano puntato tutto in base ai sondaggi sulla vittoria di Hillary Clinton, e quindi c'era un po' più di tranquillità. E poi un giorno licenzieremo i sondaggisti, che sono quelli anche di Brexit, probabilmente. Sono sempre gli stessi, evidentemente, perché hanno perduto un po' di capacità previsionale. No, ci sono appunto, c'è il rischio della, ovviamente si sta, che salirà l'oro, questo si apprezzerà l'oro, come si dice, perché è considerato bene rifugio. Ci sono timori per il petrolio, per quello che può essere l'andamento del petrolio, il dollaro andrebbe a indebolirsi. Vediamo, già questi primi segnali si sono colti, tra poco apriranno le borse europee e vedremo i future, cioè i titoli che stanno ad anticipare un po' l'andamento, sembrano già orientati fortemente al segno negativo. Certo. Noi già nell'edizione digitale, devo dire, per chi legge il Sole 24 Ore da tablet, da computer, avevamo un aggiornamento abbastanza avanzato su questa affermazione di Trump, quindi con un po' di considerazioni, lo dico perché ci sono anche già un po' di considerazioni, di previsioni sull'andamento dei mercati e delle borse che si può prevedere. Allora, poi naturalmente, dimmi. No, poi ovviamente c'è tante altre cose sul Sole 24 Ore, visto che la vita continua. Beh, certamente. Sì, come ha detto Obama, il sole sorgerà anche domani. Lo sì, ha detto. E le imposte andranno pagate entro il 30 novembre, vorrei dire. Agli ascoltatori. Cioè, no. Non è che con Trump vi cancelliamo tutto. No, le cartelle le rottamiamo, le cartelle le possiamo rottamare, forse il Parlamento cambierà qualcosa, lo scriviamo oggi, c'è il calcolatore per vedere quanto vi costa sul sito del Sole, ma si pagheranno le imposte il 30 novembre, questo lo posso già annunciare con certezza, e infatti oggi noi diamo 16 pagine in più per spiegare appunto gli acconti Trump, e molte altre cose. Allora dai Mauro, oggi ti rubo il lavoro e lancio io il traffico, intanto ti ringrazio caro Mauro Meazza, poi vorrò chiedere, quando rientriamo, a Flavia Perina, a Umberto Brindani, soprattutto a Flavia Perina in quanto donna, se davvero anche tutte le dichiarazioni, anche la nostra Valentina Furlanetto che è qui, tutte queste dichiarazioni non certo molto tenere nella storia di Trump nei confronti delle donne, anche tutte le accuse di averne molestate chissà quanto, ormai ho perso anche il conto, se queste cose abbiano davvero influito e vi diano così tanto fastidio. Tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mattino. Stiamo raccontando l'avvicinarsi di Donald Trump passo passo, sempre più pare alla Casa Bianca. Sì, no, Valentina? Sono con la Pennsylvania, che erano 20 grandi elettori, e ora l'Alaska, che assegna 3 grandi elettori a Trump. Siamo a 267 grandi elettori per Trump contro 218 di Clinton. Questi, e quindi certi, siamo... perché alcune sì. proiezioni dicono che avremmo già superato la quota 270, ma chiaramente ci vuole l'ufficialità. Però insomma 267 siamo davvero un soffio, Michigan, è un po' che irrecuperabile. 16, è in vantaggio Trump, quindi se tanto mi dà tanto. Cara Flavia Perina, allora quante ne ha molestate? Io non me lo ricordo. Non lo so, un numero infinito. Diciamo uno dei più grandi errori credo di Hillary sia stato improntare gran parte della campagna elettorale su questo dato, immaginando che fosse un dato che l'aiutasse a screditare Trump e a disilludere, a far cambiare idea a qualcuno dei suoi sostenitori. In realtà, quando tu sei povero, hai paura per il tuo futuro, hai norme, leggi che delocalizzano le produzioni e che quindi vanno a tuo svantaggio, non hai sostegno sociale, a te non te ne frega niente se quello che ti promette il sol dell'avvenire, il paradiso in terra, ha molestato le donne oppure no. Diciamo, sono categorie che passano in secondo piano di fronte alla rabbia, alla disillusione dell'elettorato americano, anche per gli 8 anni di Obama, da anni dai quali probabilmente l'elettorato progressista si aspettava di più. È chiaro, è chiaro. E quindi io credo che questo, che è stato un tema molto mediatico per tutta la campagna elettorale, in realtà è scivolato sopra l'elettorato senza far danni. Questo sì, devo dire che adesso anche le agenzie dicono che si attende in qualche modo una proclamazione ufficiale, cioè gli ultimi dati, ma Donald Trump ma di fatto l'ha già fatta Obama, cioè Obama nel quando... momento in cui ha detto all'America il sole comunque il sole sorgerà mai. Ancora, ecco, non è che è ci passa il cielo sulla testa. Ha già fatto capire. No, ma è chiaro, ma è ovvio che per l'ufficialità dobbiamo certo, aspettare. Certo, aspettare. Noi però abbiamo delle antenne straordinarie, come sempre detto. I nostri ascoltatori, ce n'è una che abbiamo scoperto un po' di tempo fa, il nostro amico Gaetano che fa l'architetto per ricchi, for rich people in Texas. Gaetano, buongiorno, anzi buonanotte ormai per te. Buongiorno per voi allora. Come va Gaetano? Profondo Texas, il Texas proprio di Trump, il Texas che vuole costruire il muro col Messico. Lì non c'è stata partita, no? Si sa. Tu hai votato Gaetano? Sì, certo. Chi hai votato? Ho votato per Trump. Per Trump? Oh, spiegaci perché. Sì. Perché non mi piaceva la Clinton? Questa è la risposta. No, ma voglio dire. Ma well, non è solo mia, Io ho parlato con tanti e non ci piace Trump, non c'è poco da dire. Però la Clinton è peggio. È peggio. Questo, cioè, si è votato il meno peggio. Sai che qua Indro Montanelli diceva di votare turandosi il naso in Italia. Avviene anche in America allora. Sì, è venuto anche in America, sì. Ma questo sì, è una cosa è normale, ho parlato con tanti e tutti siamo di questa, abbiamo questa opinione. D'altronde non è che abbia fatto molto per farcela cambiare. Certo. Però, lì a Dallas ovviamente è un feudo, no, di Trump, non c'era dubbi sulla vittoria. Ma stupisce questa vittoria possibile, ormai data per certa, con questi numeri o no? Sì, da un certo punto di vista sì, dal mio punto di vista è che qui siamo nella belt, the Bible Belt, la cintura della Bibbia. Della Bibbia, okay. Sì, e quindi qui l'aborto ha un fattore importante. E la Clinton era dall'altra parte. Insomma, l'aborto. E poi le pistole. E poi la pistola. Perché qui, sì, guns è un argomento molto delicato. Molto delicato. Capisci, Umberto Brindani, direttore di Oggi, è il nostro Gaetano, che è veramente un personaggio straordinario, fa l'architetto solo per case grandi, da quelle parti lo spazio cioè si fa grandi. Dice, ha votato per il meno peggio. E poi con queste tematiche che vedi dal nostro punto di vista sembrano così lontane, invece sono così le profondamente armi, americane, Umberto. Ma guarda, io ho l'impressione che sia successo ovviamente quello che è successo anche con la Brexit, cioè che alcuni, non molti, alcuni hanno votato Trump pensando che comunque Trump non avrebbe vinto, e qui torniamo ai sondaggi, forse anche a noi giornalisti che ci siamo sempre innamorati un po' delle cose più normali, più banali, più prevedibili. Comunque, certo che intanto ti volevo dare la notizia che le molestate da Clinton, da Trump sarebbero 11. 11, questa cifra. Insomma. Hai messo tutte le foto, ovviamente, tu immagini. Esatto. Dopo l'altra. Sì, comunque c'è una sensibilità totalmente diversa. È chiaro. E, voglio dire, tra l'altro questo è un messaggio fortissimo negativo anche per noi, anche per il nostro Matteo Renzi, in vista del referendum, perché siamo nella stessa situazione. Tra l'altro, guarda, i sondaggi e i giornali che non capiscono la pancia dei paesi. In questo momento, noi nel ringraziarvi sia Gaetano da Dallas, Texas, sia Umberto Brindani, direttore di Oggi, il cui numero trovate in edicola proprio se andate questa mattina, il nuovo numero, Flavia Perina, i media statunitensi in questo momento iniziano a dire Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Lo dico alle 7:54 minuti, non c'è ancora, come dire, l'ufficializzazione, ma questo è. Valentina Furlanetto, io nel ringraziarti ti lascio al giornale radio dove riapparirai, quindi tra pochi secondi, chissà questa ufficializzazione se arriverà durante il giornale radio o durante le 8, adesso quando ci raggiunge alle 8:20 Oscar Giannino, ma cari italiani che siete all'ascolto, cari stranieri, cari tutti coloro che state all'ascolto in questo momento, possiamo ormai dirlo quasi ufficialmente, Trump è il nuovo inquilino della Casa Bianca. Andiamo al giornale radio.